sui, aspetta un attimo. Effettivamente c'hai la glicemia alta, non c'è cosa da peggiore per la barra di colizia. Oh Claudio, la glicemia è qui, la fa passare. Per fare la spesa. mi fermo 5 minuti. Mangiati intanto una liquirizia, poi arrivo e prendi Gianni. E Gianni? Nel manicomio. Ok, perfetto. Ciao Don Pionomo, buonasera Claudio, buonasera anche a te Grote. Ben ascoltati tutti quanti. Io lascio un Claudio che può piacere a fargli dare avanti Claudio. Sì, è già no, sto facendo cosa, preferisco rimanere in ascolto. Continuate voi, sentiamo le prossime. Sono impegnato al PC. Riprendi Grote. Niente, sono andato da Fabrizio, mi ha fatto vedere la strumentazione che ha, devo fare i miei complimenti, nel senso che abbiamo finalmente qualcuno che a Sassari sa mettere le mani su determinate cose, perché ho visto gli apparecchi e gli manca ancora poco per raggiungere livelli, benché io non sia così erudito in merito alla elaborazione di cose. Di tecnico comunque ha ottima strumentazione per fare qualsiasi tipo di controllo adesso, e devi vedere quel 140 che ha, è una favola, sembra appena uscito dalla favola. Ognuno si va a dare un bacio al mio nuovo corpo, è quello, va bene quanto è quello, forse anche meglio. Aspetta, allora, che funzioni non lo so e non l'ho visto in funzione, però l'ho visto e non c'è margine di miglioramento, perché proprio sembra uscito dalla scatola, cioè ha avuto fortuna, è nuovo, intonso, a dire che c'è un graffio, la mascherina è perfetta, sembra che non sia stato neanche esposto perché non ha neanche i segni del tempo, che vuole essere dato dalla luce, vuole essere proprio nuovo. Io la stessa cosa, mascherina nuova, non ci sono graffi, né interni né esterni né niente. È stata sostituita la scheda di filtri perché era bruciata e basta. Perché ho comprato io nuovo e ognuno ha tre per si vanta la cosa sua. Voi fatemi fare, ci sentiamo. A proposito, ho visto qualcuno che si sta vendendo un 140, però c'è scritto Andrea, mi sembra, su subito.it, ed è un prezzo buono, è che non ho messo la foto, quindi non si riesce a capire poi alla fine come e quanto sia buono il prezzo, perché 200 euro possono essere pochi o possono essere un bel. Ma sarebbe meglio toglierlo, l'ecco, però te. Non è fatto per farmi servire, già ho scoperto un accidente. Io aggiungo la cosa, io ho 30 anni chiuso al 140 ed è stato sempre criticato, adesso tutti fate il numero 140, quando io dico le cose non dire che sono sicuro di quello che dico. Guardi come il 140 con la 27 non c'è neanche il 440 che esce così bene, quindi questo è il mio punto di vista e questo è quello che ho sempre detto. Ripeto, ribadisco, ognuno si vanta la propria cosa, io ce l'ho, lo sto usando, e questo lo sto usando, quello mi ci ho tanto, e per arrivare a questa modulazione molta gente deve mangiare ancora molto pane e formaggio, nonostante si metta a fare, a rifare, a tirare, a rimollare. Questo è stato fatto da Carlo Cieca, 23 di Chiaramonti, e quindi per me, sino a quando non mi sento una meglio di questo, non posso dire altro. Avanti Gianni. Bisogna avere radio per ascoltarla, altrimenti risponde come ha risposto un altro poco fa, uno di quei magnum, deve essere qualche biscotto. Dice, lo sento fuori frequenza, c'era Fabrizio. Ecco, proprio questo volevo dire, Claudio, che ci vuole anche radio per ascoltarlo, altrimenti chi ascolta ha una sensazione diversa da quella che dovrebbe essere, non dico altro. Allora, il 140 è l'ultimo apparato, io ce l'ho avuto, la gran bella macchina. L'unica cosa che non sopporto è la rumorosità sulle altre parti, ma è una questione di gusti, perché poi ascolto radio e tutto un altro discorso. Ascolto anche le broadcasting in AM, quindi preferisco stazioni con caratteristiche diverse, come dice Vittore, altre cose, basta, ma è una passione mia. Però il 140 non toccate, però secondo me, io dico di questo, allora, a parte tutto, il 140 come modulatore, come push pull di stadio finale, come stadio filtri non ce n'è. E in inutile stare lì a girarla. E io ho sentito Incom, ho sentito Iaesu, no, no, 140 come modulatore non ce n'è, no, non c'è niente da fare. Kenwood e Kenwood, boh, punto. Poi ognuno dica quello che vuole, avanti grotti. Ma rispondendo a una porta aperta, perché fino a prova contraria ne avevo due insieme. Poi uno l'ho venduto perché stava iniziando a creare problemi, perché era in previsione l'acquisto del fratellino grande, però assolutamente, ma perché c'è un motivo poi, perché la Kenwood fa anche hi-fi ed è per quello che ha curato molto il suono, poi l'accoppiamento è ottimo, che quel microfono a livello di materiali si valga quello che costa, non credo sia giusto. Nel momento in cui lo abbini a quel tipo di radio, allora sì che si rivale, però a livello di materiali ci sono ben altri microfoni con 180 euro che si possono comprare, ma non per trasmissione radio, perché davvero nell'MC60 non c'è niente dentro che giustifichi quel prezzo, però abbinato a quel tipo di radio, il 140 o al 440, diventa un signor microfono. Io non sto usando le MC60 con 140, sto usando le MC80, l'ho pagato 80 euro, quindi 90 euro, l'ho comprato a Manismo, non ho avuto la scatta, mi spinge molto di più della MC60, sicuramente. Il problema base è che tutti continuano a fare, però per la fine dei discorsi è sempre quello che dico io, la realtà. Il 440 come modulazione vicino al 140 non ce lo metto, l'unico che può dare fastidio al 140 è il micro 430 che si mangia anche il 440, e su questo non ci piove, che mi dicano chi ne vuole dire. Poi a prove tecniche di trasmissione, ripeto, ribadisco, quando mi fanno sentire una radio che esce così come questa che ho io, allora si può fare competizione, ma per il momento non ne ho sentito neanche una. Scusa un attimino Gianni, io volevo dire questo, c'è un grande paroliere che si chiama Mogol, che tu conosci bene, che diceva che Adriano Celentano poteva cantare anche la guida telefonica, perché la particolarità della sua voce lo metteva nella condizione di far diventare un successo qualsiasi tipo di cagatta. Ora io ti dico, tu sei l'Adriano Celentano delle radio, e non te lo dico per piaggeria, però tu qualsiasi microfono lo porti bene, al pari di come porti un MC60, di come porti altri microfoni. C'è una piccola differenza, però hai un'ottima modulazione, assolutamente. Il problema è che chi non ha la voce come tua, la tua si deve adattare un microfono alla propria voce e deve trovare quello giusto, perché non tutti sono nella capacità di portare quel microfono in quella maniera. Tu hai questa peculiarità, questa fortuna, ciccia, gli altri si devono adattare. E per quello che comunque nessuno di quelli che ce l'hanno qua e che conosciamo, i conosciuti, riusciranno a portare quella radio con quel microfono in quel modo. Vabbè, non ce l'ho più il 140, non ce l'ho più, non è proprio così, non è proprio così, a parte la timbrica del Claudio, no, quando un apparato non modula è un po' come pensare che una scimmia possa guidare un'astronave, non c'entra niente. Quando un apparato non serve, è inutile che tu dai le colpe al discorso dell'operatore. Ma facciamo così allora, aspetta appena. Adesso prendiamo Massa Mauro e la sediamo su una Ferrari. Poi prendiamo Valeria Valini e la mettiamo su una Panda. Chissà che il pubblico scelga la Massa Mauro e dica pure che è buona perché su una Ferrari. Un attimino, quello che volevo dire io, forse non si è capito, che se anche io adesso vado a casa di Claudio e modulo con la sua radio, non avrò mai la stessa modulazione, la stessa spinta che lui riesce a dargli con la voce. Se lui invece viene qua e usa questo baracchino, diciamo che si avvicinerà molto al tipo di modulazione che ha adesso. Solo questo. Questa fortuna è ciccia. Claudio, mi presti la tua corda vocale? Non ho problemi. C'è un sistema per poter usare il 140 in questa maniera. Non toccarlo, non stare lì a matarti il reddito, perché più di quello intanto non può dare. Questo sarebbe Carlo CH23 di Chiaramonti a aprire leggermente l'LC, a dargli qualche watt in più perché è abbastanza chiuso quando lo compri, e ad abbinarci un ultimo microfono che può essere 60, 80, 85. Altre cagate io non ne ho mai fatto, non ne ho mai toccato, non mi sono mai messo a fare cose che non so fare o che so fare, va bene così e basta. Dimostrasi di tutte le mie radio, uso anche lo Yaesu, come ha detto Gianni, che è da schifo, né? E ti dimostro che lo faccio uscire come esce il 140 e come esce l'850, perché ho sentito altri 850 eppure non vanno come quello che va al mio. Forse, come dici tu, è la realtà della voce, ma forse è anche vero che bisogna lasciarla com'è. Quindi senza stare lì apri chiudi, questo sia ben chiaro, il discorso è sempre quello, ma non si tocca la radio e il microfono. Vediamo se già mi lo vuole riprendere, dopodiché vi saluto e passo in QRT, lasciando via le vostre corde vocali. Comunque, per scegliere le corde vocali, quando sentirò, ripeto, un primo perché esce come quindi dice io, allora vuol dire che ritirerò le parole che ho detto. Per il momento ancora non ne ho sentito uno a livello buono, nonostante ce ne siano tanti. Avanti Gianni Rotterù. Ci mancherete, la tua esperienza sull'Hi-Fi è superiore, però io meglio, parli a ragion veduta, però ti dico, chissà perché, avendolo aperto, tengono dentro, non sono giustificati 180 euro, dai, con 180 euro compri ben altro microfono da sala, sta facendo ridere, a 9:10, ma tutto il resto si è fatto, poi sta frequenziando, sta facendo un po' di cagato per dare fastidio. Fai da bravo. Sì, a Massimiliano. Io dico, quando uno si deve mettere a rompere le balle, deve rompere bene, non così. Così non vai da nessuna parte, metti i watt. Arriva 9:10. Sì, è un pagliaccio, non va da nessuna parte. Pagliaccio. A parte di dove stai passando alla grande. Guarda che guasto, guarda. È un deficiente, cos'era? È un deficiente, poi quando la gente si sposta se ne va nei canali alfa con 5, 600, 700 watt e splattera tutto Sassari, allora venga a mettere la portante che mi diverte. Una cosa che questa gentaccia, Claudio, mamma, come ti dicevo l'altra sera, non hanno senso, non sono capaci di niente, sono persone che sono state castigate dalla vita, ma ceramente, guarda, io mi meraviglio, stanno a vivere tutti questi, io mi sono tagliato le palle, mi vergogno, ma sono i simpatici, chi riesce a stare a vivere, ma si era tutto con tutti i tassi. Avanti, grazie, c'è stato un bel che se non sbaglio, avanti. Yeah. passa la Luigia, che passa al centro sotto io, c'è il 920 qua. No, non è quello, è proprio passare in passi già, però il fastidio di sentire questo, tu sei proprio un idiota, sei un idiota. Cazzo, ma perché non lo butti nel cesso il baracchino? Spiegami. Secondo me non è neanche un baracchino, ma te ne devi fare la vergogna, guarda. No, se mi giro la palla adesso esco in macchina. Sicuramente qua non è quello che neanche il però c'è, sento questo fruscio sotto, ma non è quello che neanche il però come la fruttina da Giordania. Ma non ci vuole niente, basta lasciarlo fare, se qualcuno è intelligente esce e si trova, poi quando si trova andiamo a fare visita, tutto quello che viaggio lo prendiamo, se lui non ci apre la porta gli apriamo pure a calci. Sì. Mazzino. Anche il bit l'ho messo adesso, vi faccio vedere che c'è il bit. Stai attento, non te lo fico nel culo col bit. Ti ho capito, che c'è un telefono già che... Capire questo genere di divertimento, ecco, sarebbe da capire cosa affronta. questo qui ora ha messo le corna alla moglie, vuole trovarlo. Comunque buonasera, aspetta un attimo. Fanculo. Oia, sì. Buonasera Barracuda, no, sono da poco fa che ho acceso e è stato questo casino allucinante. No, più li dai corda, più gode questo stronzo. Ehi, vabbè, può godere anche ficcandosi da portando dove dico io, così magari è capace che raggiunge i zitti più alti. Buonasera, Giovanni da questa parte, stazione Malincuoio. No, lo so, no, rimango allibito, non serve a nulla, non ha senso. Ammetto, ma l'incontro si vincono. Scusami. Dai, papà, mi compio, ma ne compio. Vai, dai, canale 8. Ora mi è chiara la situazione. E adesso su questo canale, ma sta seguitando anche qua. Purtroppo, questo qua ti copre. Sì, devo prendere apparato però. Facci in effetto. Ehi, aspetta, vai. Prova. Eccomi qua, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sto uscendo, sì? Sì, già sta andando. Perfetto, no, perso il 6, hai detto vai sull'8 ed è arrivato sull'8. Breco, breco. Avanti, breco. Prova ad andare in OS. USB. E io apro USB. USB, mi segui. E un po' se ti dice mi devi centrare, vedi un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dai, che qui lo posso sicuramente, mi senti? E io a K, tu mi ascolti? Sì, sì, no, ti sento bene, avanti, avanti. Ti voglio pensare mia moglie che vuole dire qualcosa, che anche lei è un po' girata le scatole. Passamela, buonasera signora. Buonasera lei, vedo che si sta divertendo, sì, ma perché si diverte con un'altra cosa invece di stare a occupare o disturbare le persone che vogliono parlare educatamente? Ehi, guardi signora, non ne vale la pena. Riprendo dopo, dai, speriamo che ci sia qualche altro che ti possa fare compagnia sul 10, tanto così è a buttare le parole al vento, tanto ci capiamo poco e niente alla fine. Vabbè, non c'è problema. Non c'è problema, tranquillo, comunque a te dove... Manco 5 M. A me purtroppo mi arriva 9 più 10, consumo su ma... Ma non arriva proprio, avesse radio almeno, avesse radio, si vede che con qualche apparato lì che gioca, che vuoi che ti dica, qui arriva neanche lì. No, purtroppo arriva, da parte mia arriva forte, va bene. Dai, ci sentiamo, se nel caso, un pochettino più tardino, dai, un po' dacci che mi passi un pochettino la schizofrenia, dai. Che ci sia qualcuno che ti possa fare compagnia, oppure, se non c'è niente, peccati qualche altro canale, e in cui possa andare senza dirgli dove vai. Sai che ti perseguiti, questo animale, comunque. Ma boh, ci stiamo più tardi se coincide, dai. Ma no, figurati, non c'è problema, tranquillo. Ciao, ciao. Yeah, ciao, ciao, pezzo di merda. Mamma mia, ma devi essere proprio malato. Fai pena. Fai pena. E cosa vuol dire che mi fai pena? Non si, ne guarda, mi dispiace. Sì, ti è rimasta solo la portata. Continua così. Continua. Gianni. Gianni. Ehi. E beh. Cavagava. C'era questo qua che stava giocando col... qualcosa del Clive. Stava girandolo a fare casino. E chi è? Ah, non lo so chi è, adesso ha smesso, meno male, forse c'era con qualcuno che c'era prima, non lo so. Gianni Coppi? Per carità, mi si è rotto il baracchino della macchina, me lo sai già. Prego. Eia. Cosa c'ha? Come si chiama? Quello, lo Switzer. Avanti. Come un tempo tu non sei del tutto. Avanti, Oristano. Capo. Io ti sento, fattore, ho capito di tu. Che beccato vuole? Io sono con Giallito. C'è chi ci pensa, non ti preoccupare, solo che ha smesso adesso. Oggi sono andato con una macchinetta, non lo fa con me. Con Giuseppe Leoncino che poi diventava un grande. Ciao Falco Nero, buonasera, ben sentito dopo tanto tempo. Vedo che ti abbiano chiamato. Come? Non tutti come, se ne tutti, come? Ha capito Falcone, meglio così. Cosa? Sì, c'è propagazione a loro. Avanti, Antonio, buonasera. Ehi, io che devo chiedere un SP, orca miseria, poi mi sono dovuto spostare, spacciatemi una sigaretta e poi sono rientrato, perché visto non c'era nessuna portante. Magari c'era con una persona, non lo so. Comunque, voglio metterci in lingua perché io 39 sono insomma curiosa. Ho sentito solo che c'era questo clarifer che faceva basta. Ehi, ma era più di un'ora, anzi forse anche di più. Ti volevo dire, ti volevo chiedere un'informazione, poi ripeto tra 5 minuti, ho fatto un collegamento oggi sia con Roma che con Lecce, e quello che ci deve spedire, diciamo, è una cartolina quando uno alla fine fa questi collegamenti, giusto? Spediscono una cartolina delle loro parti, correggimi se sbaglio, come viene chiamato nel gergo CP? QSL. Ecco, questo QSL alla fine lui mi spedisce una sua cartolina del posto, giustamente io devo ricambiare con una cartolina, diciamo, del paese in cui abito, giusto? O funziona diversamente? No, no, funziona così, io solitamente io ho la cartolina personale, praticamente più ho la cartolina in sughero che spedisco. La personale metto il segnale, l'ora, eccetera, eccetera, e quella invece il sughero 7351, eccetera, eccetera, la stazione doppio lungo. Così, puoi mandare qualsiasi cosa, monetine, qualsiasi cosa, puoi mandare, se puoi dire colleghi da Svizzera, ho collegato anch'io tutti i due colleghi tutti dalla macchina. Io ero sul 22 ed era a Roma, e a Roma questo qua dice si è spaventato, dice non è possibile, tu non stai bravo alla Sardegna, come non sto bravo alla Sardegna, bravo, bravo alla Sardegna, dice che gli arrivava a fondo scala, che gli era una cosa impressionante, dice, ed era dal 75 questo, nel 75 è iniziato a modulare, dice, è la prima volta che riusciva a collegare la Sardegna con un segnale così, dice, impressionante. E aveva fatto una bella chiacchierata, poi c'era molto quel remolo, siamo andati in canale sopra, sempre in AM sul canale 20 o 22, sul 22, sì, e poi da lì si è collegata a Lecce, con due di Lecce, ha fatto una bella chiacchierata, una ha chiuso e l'altro dice che mi mandava la cartolina, mi ha chiesto i miei dati, gliel'ho dati e giustamente quando arriva devo ricambiare. Sì, beh, forse la cosa migliore è spedire una cartolina in sughero, tipica, diciamo, della Sardegna, penso che faccia anche più bella figura, ecco. Poi se c'è qualche suggerimento, dammelo, perché è la prima volta che, dunque, dovrei fare bella figura, ecco. Allora, suggeriamo che non dare mai l'indirizzo, perché se non dare l'indirizzo, scopre, non si possono fare gli ex. Ti arriva invece che la cartella la multa, se c'è il centro d'ascolto a Roma, ti mandano la multa come hanno fatto già un amico. Agaie, se fottido. Ah, ma non ho detto che ci fossero. In quel momento che l'ha fatto questo amico, il collegamento, gli ha dato nome, cognome, via, indirizzo, tutto quanto, se gli è arrivata la multa, poi deve arrivare la cartolina. Già gli è arrivata anche dopo la cartolina, ma prima la multa. Vabbè, ma questi DX, scusa, alla fine della 27 c'è propagazione, ti pare che non puoi parlare in propagazione, dai, penso che sia una cosa abbastanza ridicola questa multa, comunque. No, non è detto che te la faccia, Antonio, no, è successo, dai. Ma comunque, quindi vedo collegato anch'io, sia a Lecce, arrivato a fondo scala, sia a Roma dalla macchina. C'è una bella propagazione, è quanto mi stavano dicendo il 2012 dovrebbe essere un'ottima annata, diciamo, per la propagazione, dunque avremo abbastanza collegamenti, ecco, grazie al sole, dunque la colpa la dovremmo dare al sole, che la metterà lui la multa, no, la diventano a me se capita questa occasione, scusami, è sempre nella 27, poi non so qua, non capisco comunque queste leggi strane, comunque, no, vai tranquillo, già mi arriva la cartolina, niente multa. Ok, va bene, ti ringrazio già. Se nel caso ci sentiamo dopo, dai, faccio una bella doccia e poi se ci sei mi riattacco di nuovo, dai. Aspetta, quello di Roma, Massimiliano si chiamava, quello che abitava al centro di Roma dove c'era lo stadio, per intenderci. Sì signore, ho beccato a lui e un altro che era fuori Roma, adesso non mi ricordo, zona aeroporto, una cosa del del genere, sì, il primo che ha detto era città Roma, esatto, proprio lui. Infatti adesso che sto facendo memoria locale, perché ne ho parlato veramente, ne ho beccato veramente tante persone, e mi ha detto che va collegato Sassari, ho detto ma sul canale 10, sì, e ho spiegato tutta la situazione, che moriamo sempre sul canale 10, e se nel caso salvo propagazione ci beccava lì, sì, proprio lui. Mi ha detto che c'era un cognato di Sassari che gli mandava sempre il formaggio con il vino. Ah, allora c'è un carabiniere, dai, sta va bene, posso stare tranquillo. Ciao, bagava. Sì, sì, ma ha detto anche questo qua. Io andando a Porto Torre c'è cosa strana. Allora, in pianura lo prendo la bomba, lui mi riceve la bomba. Sono salito su Monterraso che di solito prendo la bomba a tutti, e il segnale cade, sale di brutto. Da lì non riuscivo più a sentirli. Sicuramente nel punto sicuramente più basso eri, era la posizione migliore per modulare da quelle parti. Chissà che giro strano faceva per segnale, roba di rimbalzo stranissimo che purtroppo non potremmo vedere, ma comunque l'importante è che capito altre occasioni come oggi. Dai, mi sono abbastanza divertito. Io verso le 5:30, 6:15, stavo andando in doccia, ho acceso l'apparato l'ora prima, poi ho iniziato a sentire un po' di modulazioni, ha ponato Mimi, ma questa non ero passata, ha ponato io, e sono da stasera che sto parlando, dunque sarebbe anche da di lavarmi, ne ho approfittato, non me lo volevo perdere la verità questa occasione, tanto sapevo che quando il sole se ne andava a nanna la situazione finiva, dunque ne ho approfittato. Antonio, se tu vai su 45, ne sono grandi modulatori a voglia che arrivano a fondo scala, radio a bomba, camionisti, tutto c'è. Cavalcava, c'è anche Giuseppe e Falconero di Sosso, dai, salutami e poi fai quello che devi fare, devi restare, se no vai all'albaria. E io non credevo che da solo, però comunque scusatemi, chiedo scusa. Buonasera Barracuda a tutti e due, non abbiamo proprio sentito, sento solo a te. Ci sentiamo più tardi allora, da buon proseguimento, scusatemi, credevo che era da solo Gianni. Avanti Falcone, ci sono. Non mi trombo. Ero con Antonio Di Ussi. Sarà pieno il tipo? Non lo so, non lo conosco. Forse è Daniele. Forse è Daniele. Che cos'è? Una Turbo 2001? Da un 2 metri lui. Ma qua che c'ho io? Daniele, non so se è della pianeta Daniele, penso che sia lui, che lui ci ha donato il 2001. Infatti faccio così, guarda, adesso va bene, posso andare così. No, sono addormentato io, te la sto ascoltando. ti risponde allora, ti ho beccato due volte. No? La Turbo 2001, Turbo 2001, c'era quella uguale a noi, c'era Daniele, TNT. Tutte le parti al vero, sorso, senno, i baffuri, insomma, gira tutto per te. Ammato, ma vai da un bel che non mi venga stesso, ma prima gli avvini un bel spesso. Per carità. Sì, ma questa è molto bella, sono molto bella, infatti è che non lo spazio, ma in realtà ti faccio vedere dove hanno realizzato il posto per la mia piccolissima, piccolissima impostazione radio. Se inizio a caricare il radio non lo posso per lavorare, per fare attività, qua ci stanno un po' di radio, apparecchiature, non so nemmeno quando entro, devo entrare in castro, quindi sono spazio, capito? Sì, da me già l'hai visto, là, è piccola ma sincera, là. È bellina. Sì, sì, ma sono all'intermezzo di una stanza, capito? Piccolina, un chiuso dentro, però c'è tutto il quello che mi servono. Se faccio delle modifiche per una stanza per far fermare qua, per il momento quindi non mi posso nemmeno caricare, come adesso mi sono una radio di portare dall'altra là, non c'è più spazio. Cambia a casa, no, cambiare no, forse se mi danno l'autorizzazione costruisco su. Ah, sono proprio uguale. Forse sì, ci sto pensando seriamente. Via, togli tutte le antenne di nuovo. ma se questa volta costruisco e riesco a prendere la licenza, lo smonto direttamente, quando lo costruisco faccio montare direttamente il traliccio, capito? Beh, una volta che sto costruendo lo fai fare appositamente. Così facciamo spaventare qualcuno qua vicino che già si è spaventato. Perché cosa ti hanno detto? Eh sì, qualcuno ha preso con ghinta al 100% che era una spia. Va bene. Miglia. Allucinante. Con ghinta, con ghinta al 100%. E non lo prendevo in giro io. E che te l'ha detto a te, a qualcuno che l'ha detto? A me personalmente mentre stavo facendo lavori, tanto poi non posso raccontare tutto perché poi purtroppo lo sento il problema che entro e quindi mi ascoltano. Vabbè, c'è sempre gente strana. Io ho messo un link in Lucida Lab per chi parla troppo su Facebook. Catlatta. Sì, che per carità, mica se adesso dico lo parlo e qualcuno mi ascolta, quando mi arriva qua i buffetti, cazzo, sono fregato. Perché si spaventa questa persona, dice, minchia, sta per succedere, la terza guerra mondiale. Come fuori di testa? No, per niente, però fuori tutti i discorsi. Perché gli scontrini mi controllano adesso. Cosa? Anche gli scontrini mi controllano. Davvero? Sì, a vedere se questo mi è in questo periodo di crisi, se com'è possibile fare un ubi che mi costa soldi. Infatti conti in tasca agli altri, vediamo. E allora, e cosa ci vuoi fare? A certa età, e tu sei zitto, lasci fare, e vabbè. Finché fa così che non si esagera, ti fa anche due risate. Vabbè, perché magari viene visto da un certo punto di vista, ognuno sa delle sue tasche, ognuno sa di sé. E gli altri non c'entrano un cacchio con quello che fai tu o quello che non fai, tanto vedi. La gente ha ragione mia moglie, la gente ha sempre da dire che fai bene o che fai male, ha sempre da dire, quindi fai quello che pensi. Cioè sì, ma infatti non per carità, ma infatti a me proprio non ne frega niente, ho sempre fatto quello che mi pare e mi piaceva, immaginati se avessi problemi, per carità. Ecco. A parte noi, ben sentiti, il grande. Ciao grande, in questo momento ho aperto un po' la roba, cazzo. Beh, come mi senti comunque adesso? Adesso sono perfettamente incentrato. Pappa di Rogero. Ero in giro a stanare su Righi. E poi anche una bella radio, come lo senti oggi al grande? Vabbè, stanato. Era fuori, come ho detto io, avevo ragione. Altro che in frequenza non era fuori di 01, era 27.076, quindi l'ha visto con gli occhi anche il grande. Sopra il coso, sopra il sedile della macchina, il caldo ha sciolto evidentemente l'interruttore. Non c'è capito nulla perché lui si è sovrappappato in TV. Ma con chi? Con Fabrizio. Ma tre invece tu Gianni, mi sembri strano oggi. Strano? Non so. Perché sono stanco, capito? No, negativo, c'è una modulazione un po' satura. Chiedo conferma. Prova a vedere. Non sembri... Fabri, sentilo un attimo. Si conferma, si conferma. Mi davate altri 5 minuti, secondo me era stanato, anche perché l'idea me la sono fatta di da dove stava arrivando. Perché poi ha mollato. Ma lui deve capire che ogni volta che se mi dà 10 minuti me lo ingroddo, perché ho capito esattamente dove era, non esattamente, diciamo che ci sono andato molto vicino, però è zona Santa Maria di Pisa, chiaramente. Ma quanto veloce Santa Maria di Pisa, signore, rivolga Santiago 9:15. Sto dicendo, zona Santa Maria di Pisa, andate veloce, perché copriva anche Claudio lì. E che poi Claudio è andato a mangiare e ce lo siamo persi. Come mi avevo voglia di cagare quando sento queste cose, quindi preferisco rimanere in ascolto. Mi deve passare la voglia questo qua, capito? Si può anche impiccare tutta la sera che seguo le persone, ero su 45, ero... da tutte le parti e sempre metterlo appresso, ma addirittura Massimiliano che arrivava a fondo scala, quindi è chiaro che dalla veloce dove che sia lo pugia già le passa, non ti preoccupare, tanto io ho già avvisato le scolari, ho visto avvisando tutti, vuole poi nessuno abbia niente da dire, io stasera ho avvisato le scolari e da domani iniziamo a fare le misurazioni di nuovo dai punti sino a Sasse e così vediamo un pochino di rimettere a posto le cose. Però sostenere la mia tesi, ma per colpa di uno stiamo a piangere tutti quanti, non è giusto manco questo, ma non mi interessa, io pago due concessioni, capito? Mentre tu paghi 12 euro io pago 5 euro, 12 euro e 72 euro all'anno. Mi fate conto, poi tutto dritto di fare quello che mi pare mi piace da Dio, sempre nell'ultimo naturalmente, quindi quando mi disturbano io non mi tratto più, prendo il telefono, chiamo la postale e domani mattina tu vedi che iniziano di nuovo le misurazioni, poi chi ci piange, a me, come ho sempre detto, continuare a dire non mi tocca. Io per chi continua a fare il coglione e continua a disturbare la gente che ha voglia di fare radio. Quanti grosse? E dove vai avanti? Mi sa che stiamo tornando indietro. Non è andare avanti, stiamo tornando indietro. Secondo me è dargli fin troppa soddisfazione. Era chiaro che ce l'aveva con una persona perché, come vedete, adesso non c'è più. Mi dispiace per quella persona perché per quel poco di QSO che ci ho fatto mi sembra una persona in gamba e soprattutto perché è meglio finirla a parolacce come spesso è successo e chiarire le cose o interrompere piuttosto che mettersi a mettere portanti. I portantisti sono davvero degli imbecilli perché non rovinano solo la persona con cui ce l'hanno ma danno fastidio anche agli altri. Ci piegano tutti. Io sostengo che comunque la colpa è di Gianni del Perù. Ah beh, se l'è poco ma è sicuro. Già, qualcuno bisogna dare la cosa, si chiama capro espiatorio. A questo punto prenditi la responsabilità, futti digni e dai, che a chi tocca non si ingrugni. Poi a tutti fossero come me, non aggiungo il bus in vitamine importanti, mai, mai, mai, perché è una cosa che non mi piace, è odio, è da conigli fare cose del genere. Non ho messo mai la portante, scagli la prima pietra. Se ti avvio la portante, ti la metti subito. Sì. Dimmi caro, dimmi caro. Mi hai chiuso i portelli? I portelli sono chiusi. ciucciu, andiamo a farci un giro uno di questi giorni. Guarda, io se capita che sto rientrando io e l'assenso in qualche maniera, oggi mi veniva male uscire perché sto facendo delle cose, mentre mi sento la forza una cosa del signor Gode, che lui già lo sa cos'è, se mi capita io la prossima volta vado a cercarlo, come sto dicendo, io lo devo capire, quando lo trovo poi ne riparliamo. Aspettato quando usciva era le bicicletta. un pericolo, quando ero in barca io tenevo fucile, bombole e tutto, e ogni tanto qualche decisiva me la facevo, grazie a Dio è sempre andata bene, ma dopo mi è andata a pescare praticamente niente, solo che avevo tutte e due in barca, non li puoi tenere, se bombole e cose non le puoi tenere. No, in coppia niente, o fucile o bombole. Sì, scordando lo fucile, ma è anche giusto, è anche giusto. Sì, vabbè, ci sono quelli che si vanno con la pila di notte, lo stesso è una pesca di fronte. Mi avvicino alla bocca, non sembra che sei basso. E poi mi dicono del sacco, ho detto che era una pesca di fronte anche di notte quando pescano con la pila. Non so, quella è un'altra cosa, con la pila, capito? È un'altra cosa. Quello fatto in quella maniera, lì c'erano 10 milioni di multa, c'erano, grazie, è incollato, non si poteva. No, per pescare ci vuole permesso, ce lo sai Fabio? Lo sai che io l'ho fatta per un sito, non so che fine ha fatto, però so che ce l'ho. Abbiamo fatto l'iscrizione sul sito. Ma io ce l'ho un portafoglio, me l'ho ritagliato, un secondo solo, me l'ho ritagliato e l'ho messo nel portafoglio, aspetta un secondo che mi vuole male. Vai Leoncina, va. È così. E purtroppo in macchina adesso non lo possiamo usare se qua non repariamo quella cosa lì, va bene. Ma mica dice la polizia, la può smettere, fumi. Poi c'è una luce dell'elettrico che non funziona bene. Ma dell'elettrico dietro? Ja. Lì c'è un problema di alimentazione, lì è un problema più serio, lì ho letto qualcosa di quel problema, per montarne mezzo a mezza radio, a quanto lo ricordo. Lei K, vabbè, tutti i numeri, i ricordo i numeri, due, quella cosa, però il penultimo numero non esce bene, capito? Mi devo controllare, mi ricordo che era un problema lì. Qualche condensatore, nella cerca lì praticamente non sta arrivando la tensione giusta. Vabbè, se in caso domenica ci vediamo, lo vedi, te lo do e vedi un po' cosa ci può fare, capito? Noi vediamo tutto quando cambiamo, perché probabilmente questi giorni abbiamo anche rapporto un po' di apparecchi che mi stanno arrivando. Ah, cappa. E finisco il cielo, te lo metto a posto volentieri. Aspetta, chi c'è rimasto, aspetta, ui, cazzo che ho la vista, per carità, avanti qua. Attenzione che Costa Rica si ascolti Sierra Sierra Alfa Alfa Sierra Sierra Alfa Alfa Romeo India Alfa. Costa Rica, lo ascolti Fabrizio Cocchi di Gatto da Sassari, Sardegna. Fariti Fabrizio. E gli fatti sparire io, come mi sento, non si spaventa, ti sono troppo fosci, troppo sogurizzati, mi sono più fosci e spariscono, capito, hanno paura. Ma di caso nasci, di Rumonti o di Latti d'Ossi? Hanno un peggio che sogurata, sono andato a Rumonti e da voi sono a Curidu a Latti d'Ossi. Ma molti alto o molti basso? Alto, alto. No, io sono matta ai piedi del mondo. E tu non sei montanaro? Sono matta a sacro cuore, quindi sono al piedi del mondo. E tu sei di pianura, montagnino. Pagava. Nel periodo di loro massavo a sacro cuore, altro che ciocca, Ah no, io avevo gli amici di Grefali, di cosa, cazzo, erano uguali, maledizione, erano uguali. E questo ti tocca fare la macchina, si buriano i tutti, c'erano le greffette, io li conoscevo, non li frequentavo, ma li conoscevo tutti. E io, vabbè, tu sei più male, io già con lì, conoscevo la greffetta e non era tanto bellina, ho un compagno di classe che è stato in greffa con noi e ha fatto fine in brutta, poi ultimamente da un po' l'ho visto, non si era messa a posto, ha fatto piacere, infermiere in una casa di cura, cioè aveva fatto piacere, capito? No? Era il rischio quello. Vabbè. Sai quanta gente è morta di overdose che conoscevo io lì? Lo so, purtroppo sì, però alla fine, ho detto. Aspetta, sto cercando un wifi per un microfono, mi hai tratto in mano che non voleva il visto, per carità, perché non si può zappare, molte volte la voglia dovrebbe zappare, per carità, minchia che, vabbè, ascolta, ma quanti anni hai esattamente già? 52. E anche tu sei anno, ti facevo più giovane, certo, sei 10 anni più di me praticamente, 9. Interessante portarsi lì bene e essere giovani venti. Ma ancora sì, comunque siamo nuovi di qualcuno, ma non così tanti più di me, quindi un'altra generazione, no. Ehi, vabbè, magari già li conosco. Sì, probabilmente di sì. Un complimento volevo te fare, probabilmente, ma comunque lì più grande, ma questo. Io lì di Greffa li ho conosciuto parecchi, non una sola. C'era una che stava nelle scuole, un'altra che frequentava lì dove c'è la chiesa, il muretto. Ho conosciuto parecchi, chi stava nelle panchine dei giardini. E quelli, 10 anni dopo di te, questi sono usciti. Il mio amico era Pecco Pè di soprannome, la zia. Come? Pecco Pè. Non lo conosco. Io conoscevo Bogambera, Ciolle, tutti quelli lì, che già li conoscevo tutti. E a uno era il cavallo della pistola da mano. Allora, eravamo tutti seduti nelle panchine, suonando la chitarra e cantando. Si è fermata questa macchina, sono usciti questi due, cazzo, che era Luca Focino, che ha preso la chitarra e l'ha in cambau, e l'ha spaccata in campo. È tornato questo qua, il sacro cuore, è andato dalla macchina e ha preso la pistola, cazzo. Se non gliela tolgo la mano io, guai. Comunque erano altri tempi, credo, per oggi queste cose cazzo sono ambienti di delinquenti, cose invece non ero giovane io, cioè vabbè, non in tutti gli ambienti, però più o meno ti poteva capitare spesso cose del genere. E vabbè, ma era gente, erano imbriachi, dici tu, ma era gente di quelli che picchiavano, capito? Gente che faceva buttare fuori nelle discoteche allora. Capito. Allora, aspetta che non riesco a scavolarlo. Riprendi, chi è che siamo rimasti? Io, tu, Leoncino, Brodda che è andato a mangiare, e poi non lo so chi c'è di altro, se vuoi entrare qualche domanda. non vuole entrare nessuno, stanno tutti ascoltando. Mancino, riprenditi il tuo microfonino. Oh, Mancino, non ha gana. Ah, era bene già. Ah? Abbarabbarabbarabbarabbarabbarabba. Mi sono bevuto un po' di Coca-Cola. E quella ti gonfia. Ti fa fare anche il ruttone. No, io già non sto bevendo la roba gasata, Cappa. Ci tieni pronto che fra poco andiamo. Quando? Io sto pensando sabato, se fa bel tempo. Stavo pensando sabato notte. Per me non c'era problema. Se già o passo io oppure mi fai uno squillo. Andiamo a piedi. E scappa. No, non c'è problema. Vediamo un po'. Tutto è che ci sia bel tempo, però. Perché. E dove andiamo? Già. Proviamo, già lo sai dopo, dove dobbiamo provare. Che mal di giudizio ci sono le barche, rompono belle balle. Passano sempre le barche, vabbè che di notte non viene. Sì, dipende. Allora che dobbiamo andare noi ci passano sempre. Perché il rientro quello lì, è il rientro delle barche. Tutto perciò. Andiamo a portiamo la provincia. No, ma per problemi non ce n'è, capito? Andiamo nel solito posto nostro e lì, barche, ma sta tranquillo che non ce n'è. Lì già pesca. Dove ti tocca fuori quel bestione che tu non riesci più, ti frega base perché mangia valesca. Te lo dico. Eia. Fabri, c'era un pesce che mangiava sempre le scadisce. Mi diceva, se questo pesce ti rompe, dammi la canna, esci. E lui mi ha mangiato, ha detto, una ferrata, mi lo mi ha attaccato, Giuseppe. E vanno, mi chiede, buco grosso. Ogni amor morò, e li ho pescati. Vuole da me, Mi pare che l'ha mangiato in due, vero Giuseppe? Eia, in due ce l'abbiamo mangiato. Una mormora, mi stava piacendo anche a me come tirava. Facciamo che fosse onorata, invece era una bella mormora. Vabbè, anche la mormora non è da buttare, non è che per forza debba essere onorata, può essere una liccia, può essere una mormora, può essere qualsiasi cosa. La liccia stella ce l'avevo presa lì a Plattamoi. Ma lo sai come l'ho presa, Fabri? Lanciando e attaccandosi. E tu spingi. No, lanciate, ho visto un cazzo della cosa, della frizione, dico è proprio accettato. Ma cos'è questa cosa? Allora lanciato qualche scugno, qualche cosa. Prendo, recupero, cazzo, e Bogu dirava. Tira tutta di lato, una cosa allucinante. Non lo so. Sono quando prendo da bene. Ma quello è un tipo di pesce che muore, si chiama tipo spinning, qualcosa del genere. Un tipo di lanci e richiami, No, ma io, cioè non l'ho fatto per fare spinning, mi capisci? Io ho lanciato, e poi sai come si fa per mettere in tira la rete, recuperi. Cazzo, come non sono andato a fare a recuperare, passi la prisione, cazzo, li ha tirati. Lo so, già capita. Sto cercando una cosa, dove sta a trovare, riprendi già che sto cercando una cosa. Ma no, adesso mi pare che ce n'è poco di pesce, prima cazzo, quando andavo le portavo un bel po' a casa, adesso è un po' un periodo strano. Prova a portarti un cino, magari fortunato. Il cino me l'ho portato più volte e abbiamo pescato tutti i due, vero Leo? Beh, certo che il porta fortuna, lo sai io. E quella che quando ti ha dato la canna, ti ricordi già, ti ha tirato la canna, ci si toccati in ora mala. E poi Fabio, se finisco la scagoriccio a lui. Ha trovato di sverme. Nah, scherza. Gaba. Ma adesso ci divertiamo, quando andiamo di notte ci divertiamo un bel. Che cosa che tema che mi venga voglia di fumare? Bastano fumare. Ah, se avevo smesso quasi più di 2 anni. E ultimamente sono successe delle cose che un po' mi hanno turbato un po' e ho ripreso a fumare e mi sono fumato un pacchetto di sigarette. Bravo. Bravo, ma va bene. Sono un po' cose che un po' danno fastidio e cose, però diciamo che sembra che la sigaretta ti aiuti in certi momenti, invece è peggio. Sì. Tu non ci fumavi? Non fumere. Ui, Antonio, e tu fumando stai, Antonio? No, pochino. Non penso di merda anche quella, scusami, dimmi. Lo so. Anche quello è una spesa, poi, oltre che fa male, è anche una spesa. E soprattutto una spesa. Dopo lo Stato ci sta giocando con queste cose, sta aumentando sempre, facendo. E io sono, me ne sono fumato un pacchetto, comunque c'è quello di fronte a me che da 26 anni che non fuma per ripreso. 26 anni. Vuol dire di babbo, 26 anni c'è stato fumare e dopo ha pieno di sigarette da remma. Brutto così. Non so perché, magari ti trovi in un momento che sei nervoso e cose del genere, sembra che ti aiuti. Sì, quello sì, ma invece è una cosa contraria. Infatti, invece di aiutarti da gabba. Ma perché ai miei tempi, quando ero ragazzo, si diceva che era più salutare fumare uno spinello che una sigaretta. Così dicevano. Anche bene, bene. Era meglio di un'imbriaghina, diceva. Ma erano sempre quei tusi, che lo diceva, no? A chi gli piace lo spirito? Giuseppe, e tu, cannoni fatto per Emma? No, io cannoni non ne ho mai fumato. Il naso. Solo una volta sono giunto dallo militare, ma l'ho fatto assaggiare, ma male. Colassa dove la mette. Dice, qua, questa è una cosa che ti fa bene, ti rilassa parecchio. Sì, ma ha rilassato tre giorni che stavo male a letto, canto, a vomiti e cosa, altro che imbriachina era. Ma non penso che faccia vomiti, che io non me ne intendo, però non penso che faccia vomiti. Vabbè, però uno che non ha mai fumato, a primo giro, girare la testa e tutto quanto, sembrava che avevi capogiro, hai capito, capogiro, e ti vedevi, invece ne vedevi una, ne vedevi 4. Pazzato, no, a parte lo spinello, poi c'era la roba da bere, e lì non era cosa, lì era di a porta di aguardente e vino e grappa. Ma sai che ti buca di Valdina, io frequentavo in piazza e vedevo. Una volta questo qua ha preso, si è messo le gocce di Valium, perché l'ho visto cosa stava facendo sopra lo spinello, no? Si è messo delle gocce di Valium e poi si è acceso lo spinello per sconvolgersi di più. Ma senza problemi, rullavano davanti a me. Perché già? Non ti ricordi che non sono andati, sono sceso a Polotolese a vedere quella commedia sassarese, quello là che era, cosa stava facendo? Quello lì era il Gabavì, davanti al palco si faceva lo spinello da un po' l'altro. Tanto di cantante, lui se ne faccio uno con l'altro, poi si è talmente fatto questo che non capiva più niente, si metteva a ballare, ti ha mai detto. È gusto. Poi si è preso birra e ha cominciato a bere dopo che ci ha fatto gli spinelli. Tante, una cassa di birra si aveva abbigliato, si la buse sotto il palco e piano piano se la beveva tutto. La piena di birra era, mi pare ne aveva una busta piena di quella di Multinito, ma piena di birra, una cosa così, ha toccato, ma non è cazzo quasi questa qua, a berci una birra dietro l'altra, ho detto cazzo, mamma mia, stavo venendo il vomito, cazzo. Perché molta gente gli piace proprio sconvolgersi a morte, a star male tutto. Io non comprendo, non capisco questa gente qua che... Io vedo persone che dalle 9 di mattina, Giuseppe, dalle 8 e mezza, dalle 9 di mattina, quando entra a lavorare, sta bevendo birra, mia bocca a punta. E la gente credo che verso le 9 e mezza, le 10, dai, le 10 che prende, che a principio mio fratello cazzo lo vedi cazzo bevendo vino, cazzo a mangiare mamma, io ho detto, ma cazzo, ma non mi fa proprio schifo a voi cazzo bere questa cosa. No, e noi abbiamo mangiato il vino. Recuperare un po' le cose, ho detto cazzo, ma non recupero, Scusate, c'è stata una chiamata, ma te chiamo Parchetto, buonasera. Ma c'era Parchetto, ma Giuse che stai battendo il record. Di che cosa è il record, Anto? Di cacciagione, a futillini, ma almeno ricordo che fucile stai usando. Il fucile? Sì, a caccia. Ma è quale caccia? Caccia rossa. Che cosa? Quale caccia tu? Caccia la bocca. Caccia grossa? Sì. A grotte. Ah, vabbè. Vabbè che lì al circolo non c'era bisogno di fucile, le prendi a mano i pulpi. Antonio lo sa, com'è il circo. Oggi il circo va bene a prendersi le pellicce soprattutto. Ma non penso che con Antonio vecchi ricordi e piccole imbeaghiri. Vabbè, erano altri tempi. Tu vino di uso, nulla, non sta più bevendo. Vino di uso, non sta più bevendo. Sempre, sempre. L'amico non ti ha abbandonato. Quando vai in quattrino ti abbandona nessuno. Ragazzi. Vabbè. Già cambieranno i tempi, ma la giustizia. Stanno peggiorando, lo fatiscio. Adesso magari ci mandano a Monti e tra un altro che peggio di niente. No, io sì. No, io prima ne bevevo un boccione, adesso sto bevendo mezzo del litro. Io va bene, un boccione è troppo esagerato. Ma adesso molto molto meno perché il vino alla la zuccherina è un casino. Bisogna andarsi cautini, diciamo. Guarda, chi è che c'è in ruota, oltre gli astanti? Ma io ho sentito che mi stavano chiamando, penso che sia stato, penso che se Pinucci è normale, ma non so perché era piccolo. Pinucci è tu sì? No, le prendete, no? Ah, Gianni, però volevo dire una cosa, Facchetta, ma sono io o è lui che è un pochettino, lo sento un po' cupo in radio? A me? Ma siccome la stai prendendo, siccome stamattina stavamo sistemando questa radio con Fabrizio, è possibile che sei sia io in ricezione che ho problemi. Gianni, cosa ne dici? Prova a vedere. Onda, Coca-Cola. ma non è che sia cupola, è la sua voce anche. Io la sento con molti bassi, però si preoccupano. Va bene come voce, lo devo cambiare. Rispetto al come un paio di giorni fa, te la sento meno squillante, ma il microfono cos'è? Sempre nel mio più 5. Che ho l'orologio, aspetta un attimo. Adesso squillante. Va un attimino. Ho la Coca-Cola. E adesso ha migliorato leggermente, anzi decisamente diverso. Così è già, cosa dici tu? Che è anche più forte. Anche? Più forte. Chiama voce. Va bene, così lasciamo così. Non facciamo troppo il resto di batte, dai, tutto qua. Ragazza, ma è Fabrizio e quello. E Claudio. Tu? Fabrizio sì. Ma stai lavorando, cosa stai facendo? Che molto cosa sto facendo, ce lo sai cosa sto facendo. Cosa stai facendo? Boh, cosa che ti ho lasciato, perché? Non hai lasciato, una cosa che dentro non andava vista. Ah, cava cava, vabbè. Teniamo un velo piattoso, dai. Te lo guardi come è dentro qua, e dopo tutti i giri che ho visto fatti credo non ci voleva. Quello lì lo sai perché cos'è, vabbè, ma intanto tu c'hai l'esempio tuo, parti dal presupposto che si parte da una fase molto bassa, perché vabbè, poi ne parliamo, dai. Scusate, e adesso ho provato, lo provo fra due minuti. Ciao, vedere, che parchetto mi stava passando? Hola, hola. Parchetto. Chi è? No, io. Stavo provando a vedere se riuscivo a convincerlo a farsi sentire. A chi? A Falchit. Falchè? Sovramodulami. Hola. Falchito. No. Negativo. Ola. E si cola. Aspetta un attimino. Ola. Che bei picchi. E che brutti merli. Grotte. Chiaro. Il resto è tutto a posto, sì, lavoro tranquillo. Tutto a posto e niente in ordine, Giuseppe. Tutto a posto e niente in ordine. E tu invece che non ti senti più la mattina, sei impegnato? E io sono impegnato lì a scuola, Piazza d'Armi, e dunque faccio 9, 12, capito? Dunque siamo lì in quella scuola e a sistemare, fare... come si chiama? Mettendo a posto la soffitta, piazzando scaffali e tutto quanto. Ah, ma quella è un'impresa comunale? È sempre quella della cosa dell'assistenza sociale, no? Che ci manda lì la squadra e noi dobbiamo essere a disposizione quelle delle persone che ci sono dentro, capito, dentro la scuola, e ci dicono cosa dobbiamo, che lavoro dobbiamo svolgere, capito? Ma fai Roger, ma quante ore dovete fare al giorno? 3 ore? 3 ore, sì, dalle 9 a mezzogiorno. Allora va bene, dai. Sì, guarda che bel fisco. E perché? Aspetta che sta succedendo qualcosa. Sempre fischiando stai. La buon'anima di Antonio Pomponio. Buonasera a tutti. Ciao Pomponio. Ciao. Ciao di Roger. Dimitri? Perché? Questo è il tuo. Yes, yes, non bovacca, a posto. Dammi 30 euro, c'è a posto. Ti ho dato da canna un attimino. Eh? Sei come Power e come Mitch, sei tutta tutta canna. Sì, sì, uso quando uso l'MC 85, quest'altro un po' fa anche il 60, uso in genere. Io ti sento, mi sembra strano, il processore è attaccato. Yes, yes, yes, yes. Attaccarlo, attaccarlo. Qui sono senza processore e qui sono col processore. Prova un attimino, ma cosa sei col 140? Sì, col 140. Cappa di odio, che spinge poco però col 140. Come? Mi sembra che spinga un po' poco. Secondo me quel trimmer che c'è dietro il mic green, gliel'hai messo tutta moneta? Sì, sì, sì, sì, no, ma è normale, questo qua non gli fa prendo praticamente niente, solo lui. Non voglio toccare, perché non sapevo la verdetta di banda, ma dopo che gli ho fatto il caratura non voglio toccare, va bene così. Se vuoi farci un po' di più, c'è più l'MC85, spinge di più. Guarda, sono letto. Mattini, non aspetta, a cambiare l'impedenza del microfono con quella levetta che c'è sopra. No, così non credo che vada bene. Un attimino a fare le due differenze. Ah, così 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se così con l'altra impedenza, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la 50. Poi lascia la 50. Aspetta l'altro, forse non faceva meglio l'altro, aspetta. Vedo più ru. Allora, aspetta un attimo, che facciamo venire avanti Alessio. Alessio Pomponio, cosa gli devi vendi? Niente. Fai da bravo però, devi fare da bravo, fai da bravo, fai da bravo però. Bravo, bravo. Sì, sì, però io. Nei miei giorni stasera sei passato a casa, guarda c'è. Ti pari tu. Cos'è? Ecco, sei venuto a casa oggi, merda Simona, cosa c'era? Insomma, non ha detto che stavi lavorando. Era un maniere facendo un condominio. Ma se la mattina dovevo fare anche un tanto antenato il fumo insieme a quello, quindi mi devo dividere in tre posti. Faccio scendere là alle 11:30 andando da mamma, perché mamma era sempre ricoverata, e poi da lì direttamente andavo a cosa lavorare. Immagino un panino se la piglia ancora domani. Ehi, avevo lavoro tutto il giorno. Ehi. Amore, quanto è che costa un impianto antenna a base, senza le calate, solo mettere l'antenna? Dipende da cosa ci vuoi mettere. Da Bricom ci sono le antenne che a poco prezzo, se vuoi ti dico il prezzo, c'ho il catalogo qua. Cosa vuoi fare? Primo, secondo, miscelatore, senza capo? No, ti sto dicendo tu cosa prendi per mettere UHF, UHF e un amplificatore da palo senza l'alimentatore. Sì, 50 euro sempre preso io per installare un'antenna TV, non è che mi è piaciuto tanto, mi è sembrato quello di oggetto un'altra volta per Bartamona, se non mi ricordo male. 50 euro di cose in modo per basta, non di più. Sono fatto così io. Quindi di materiale, però col materiale arrivi a un centinaio. Minchia, perché sta fischiando questa cosa? Aspetta. Ola, ola. Perché a Platamona stanno prendendo 170 euro. Forse 10 di meno, perché... ti faccio i calcoli subito dell'antenna del primo, secondo ci vuole un amplificatorino, ci vuole l'alimentatore, hai detto che ce l'ha già, così è. No, non era quello, ti sto dicendo, guarda, 20 euro questa quella da UHF, UHF è lo stesso perché stanno dai 16 ai 25 euro, fai 20 euro moltiplicato 2 più l'amplificatore. Torino da Palo ti costa una decina di euro, se non anche qualcosina di meno, sono 50 euro di materiale, 50 euro di manodopera, 100 euro, questo se ne è preso, al mio vicino gli ha preso 170 euro. Vabbè, non hai comprato il capo però, il capo è da milioni e mi sembra a 30 centesimi al metro, adesso mi ricordo bene la verità. Vabbè, quello gli ha chiesto un bel po' di più, gli ha chiesto, però spendevi di meno, in teoria, io penso che con 120 euro ti riuscivi, massimo 130, là, aspetto di cavo, eccetera, eccetera. No, gli ho preso un bel troppo. Come si riuscì a fischiare, no? No, già va bene. E poi, pensandoci bene, guarda che l'antenna spina di pesce funziona, c'è un amplificatore adesso per quel tipo di antenna. Piazzi quella, c'è l'amplificatore da piazzare, un alimentatorino. Addirittura è un caso di bimbi con l'amplificatore, quindi basta un'antenna unica, la punti a Monte Oro e sei tranquillo, se no a Sennori e in Divoglia a Plattaona. È fatto l'impianto, fai la cala da solo e non c'è bisogno di avere tutto quel casino. Dubbi, adesso sono tutte queste, con questa logaritmica che fa un po' ridere, bruttina forte, c'erano nei paesi da solo San Sennori, ho visto che c'erano tutte quante la monoantenna. Sì, costa di meno, costa una cazzata, costa, diventa un amplificatore è una tanta di piccolo che vende il Bricomen, guarda che forte come amplificatore, quanto una centralina, fa pure, sei tranquillo, fa una calata azzurra e sei andende, io ho provato a fare il Bricomen, sto dicendo, cioè, con quell'antenna senza amplificatore mi sono prima fatto 4 appartamenti. Vabbè, quindi finito. Oh, ci sono anche io, comunque, mi devo salutare, fra un attimo, ascolta. Non hai caricato, sai come si fa detta un portatile in 43 MHz? Sì, se conosci? No, come si resetta un portatile in 43 MHz. Resetta? In che senso come si resetta? Sei tipo con l'eco, mi vado toccato. Significa come si resetta. Io vorrei fare in pratica parametri di fabbrica, ma io non penso si possa resettare un portatile di 43 comunque. Dovresti provarlo ad alimentarlo e cioè, dovresti avere in pratica un apparecchio che ti faccia la monitor più che altro. E poi guarda se in trasmissione o ricezione nei vari canali, vedete un pochino se esce bene, se esce male, capito? Allora ti spiego, questo è un Alan HP43 Plus, se io lo accendo, lui va in trasmissione senza problemi, tutto da tutto, però non sento l'audio. Vero audio, non so se è normale in questi apparecchi, se non è normale, c'è uno spoiler, poi se non riesco a capire se è normale o non è normale, quindi vado a fare un flash e non trovo nemmeno le istruzioni. Oh, ce l'ha la... si può togliere lo squelch, mi ricordo che si può togliere, quindi se non c'è audio, la prova per controllare l'autoparlante. Oppure mettono in cuffie, c'è stata quella delle cuffie esterne. Sì, no, intorno puoi aprirlo, perché sembra che vada tutto bene e controllarlo. Allora è solo una funzione inserita, capito? Per quello volevo, insomma, appunto, la luce, i canali, cioè, sto girando tutto, capito? Ma la radiazione bella, la potenza, non si sente, quindi nemmeno, credo che il cielo è lo stesso noi, lo vado, noi, e hanno così, non mica senti rumore, sono squelciate, e c'è una funzione per togliere lo squelch, ma qui io non la vedo questa funzione, capito? Cioè non lo so come si fa, perché prima di controllarla devo capire come funziona. Ho capito. Ma non ti posso neanche contentare per vedere un pochettino le cose, anche perché io pure fare che ho guardato di quel modello ne ho. Se se lei avesse saputo dovevamo fare un'altra vedata, avresti fatto le prove al limite, trasmissione, ricezione uno con l'altro, perché se si sbloccano squarci, quando squarci portate, va bene, lasci così, non devi toccare nulla, per dire. Infatti non sentivo nulla per trasmettere, lo fai capire. Ma no, allora non ti rivendica, la prima volta la vendita voleva essere sicuro che non funzionava, capito? Mi sembrerebbe tutto a posto, una bella radio, però tu non lo so, devo provare. Va bene, come mi ascolti bene proprio? Bene, bene, a meno che non fai una cosa, mi. Se tu vai attorno alle 20, secondo me loro hanno quel tipo di apparecchi che stati in macchina, glielo chiedi. E così dopo direttamente ti avvicini un secondo al limite di mettere le batterie e fargli per fare la prova in un canale, magari qualcuno che abbia che c'è quel tipo di apparecchi inciso, mi sembra che ce l'ha quello di 53 MHz, chiedi a Gianni e così fai la prova al limite ti avvicini un secondo lì dove c'è un uomo per fare le prove. Ho trovato l'istruzione in italiano, non la scaricare per capire, capito? Non me ne imbrogli niente, ho trovato l'istruzione, adesso me ne vado in ora, ora, e sta funzionando, si controlla niente, ma me ne vado in soggiorno, devo fare le prove al computer, e me le ricerco, dopo domani mi va a fare presto. Guarda, vieni avanti, dai, che mi saluti, che me ne vado via. Dove segna le frequenze? Sì, guarda, 3.8. micro del cannolo fa commesso l'antenna del portatile e lo fa anche qua. Sempre vedi dalla frequenza, perché adesso la risposta non mi dà la cosa giusta. Ah no, vabbè. Ah no, no, no, no, no, devi fare di modulare, ci moduli sopra di frequenze, però la distanza ti dà comunque esattamente la frequenza con cui stiamo modulando. Come ti sei fatto a spaccare il frequenzimetro? Che come ho fatto? Io qua adesso si è rotto, non lo so. Non lo so, si è rotto quello del controllo nero, che c'è. Cos'è il battuto a terra? Ma cos'è il battuto a terra e malacchia? E deve essere come l'ho smontato, mi è scivolata la mano e è caduto e si è rotto questa cosa. Dì una cosa, ma si trova questa cosa? Lo Smith? Sì. Lo Smith ce l'ha il corpo, ce l'ha lui, ce l'ha, se ne ha uno. Adesso proviamo a chiedere se ne ha. Ma se questi metti come fai? Boh. No, dove si accendono le luci quelle gialle, mio Antonello. Infatti che è staccato il vetrino dello Smith, l'ha capito. Ma no, non il vetro, quello che c'è dentro, capito? Quindi me lo fai vedere, quello che c'è dentro, ho capito. Tu sei un mannaggio, tu sei, ti sei messo a combinare. Hai spaccato lo Smith deve essere tutto. Fatto che ci vuole un apparecchio proprio di confronto con tattica, in marmo ci vuole. In marmo? Allora, non è che io ho rotto le cose, ci ha rotto solo quella cosa nera che c'è nello Smith, capito? E va. Pure che la partita. Sì, Fabrizio, avevo che ti scendevo le fosse. Sì, ciao Fabrizio. Allora la cipolla, aglia. È troppo, hai capito, cioè? Sì, ho capito, ma quando tu stai proprio per fare sempre 5, così. E l'eccezione è la stessa cosa. Io quando l'attacco il baracchino, invece di che la linea invece scende giù a fondo scala, rimane a metà, hai capito? Neanche a metà. Ho capito, ma non sei mica. Comunque sale in pratica, da zero sale. Se è messo a posto sì, hai capito, se è messo a posto sì, però si è rotto quel conto del nero che c'è dentro, che dopo sono segnati i numeri, 9 più 30, 5, 4, hai capito, Santiago, hai capito, quella roba nera, hai capito, che c'è dentro lì. Ho capito. Ti sei rotto lo spinto dentro, va? Là comunque funziona, solo le cose di lui si è rotto. E il vetrino che c'era avanti. Capito. Adesso cappetta. Ma Fugiaro ce l'avrà questa cosa? No, non è più manco moto di smettere per baracchino. Il corpo ne ha due o tre buttate di laboratorio, se te lo va, te lo regala. Mi dico, guarda, ti invito una bottiglia di birra, mi dai lo Smith per i baracchi, lo dice, basta. Dabba. La carta fa metodo nuovo. Mi apri il baracchino, smontare il fottarino e piazzare i due cavetti. C'è anche tre cavi, due sono assieme e uno per i fatti suoi. Capito. E ce l'ho qua a casa, ho smontato tutto dalla macchina, antenna, baracchino e tutto quanto. Ho capito, già va bene. Io non ne ho saltato bene, anche regalato, non lo faccio. Ok, dai. sentiamo domani, se coincide, faccio pure dire che domani sarà un'altra giornata di inferno, tipo stamattina, una mazza di neguaglia, no? Non ti credi che ti fai il culo a te, solo tu, no? Anche io in questa scuola sto facendo il culo lo stesso. Stiamo tagliando erba e rovi, cose del genere, adesso due se ne sono andati per i fatti suoi, non ci stanno più volendo, quindi mi hanno dato un altro ragazzo, devo seguirlo io. Era una persona come ci deve, questo lavorava lì da Bello, era una persona ad hoc, diciamo, non c'era avuto nessun niente, quindi tranquilla. Puoi lasciare anche il portafoglio fuori, non te lo toccherà per niente, ma con gli altri lasciare il portafoglio vola ne c'ha proprio due. Vabbè, questo qua, diciamo che quello che c'è lì alla scuola ogni tanto sparisce e ritorna con un paio di butti di birra, e se le mette là dove sta lavorando e se ne beve. Sì, succede sempre male, se vuole in galera, Antonello. Sì, ma non andiamo a fare niente, io lo lascio fare, a me, io mi faccio, riportatemi il bozzolo mio da voi, degli altri, Antonello, non ho fatto nulla, io faccio per me, poi gli altri facciano per loro, senza non ho capito. Già va bene, già va bene. Avanti Antonio Brotte, ci stai lato chi sei? Aspetta, sto facendo una cosa, sono stati notti, non sta ascoltando un campo. D'accordo. Ok. Ho recuperato un po' di capsule, adesso domani devo recuperare un'altra quindicina di capsule di videocitofono, di quelle grandi. Ma in ceramica, Antonio? E in ceramica sono, sì. C'è la ceramica, c'è la metallica, eccetera, eccetera. Capa. E dimmi una cosa, cosa può essere che ho il televisore qua? Come schiaccio la portante e parlo, sento che tipo di turbi nel televisore. Che televisore? Quello della cosa, della birra, hai capito? Come fai a disturbarlo? Mi sembra strano. Vabbè che c'è quel ricevitore nero, da 20 euro vedevo di più. Stanno quei disturbi quello che entra nel ricevitore. È strano veramente, perché come ci piace la portante, guarda, forse perché come è piazzata l'antenna, a fianco c'è un'antenna di televisore e forse sta fa ripeto per anche quello, no? No, non c'entra niente quello, non c'entra proprio niente. Vabbè dai. Ok dai, ti auguro la buonanotte, un buon trabacco per domani e ci sentiamo, mi fai sapere qualcosa come sta tua madre, ok? Domani mattina ci passo a trovarlo, vediamo come sta. Dai, stanno Gian Piero questi tre giorni e quindi adesso domani ci vado io e vediamo un pochettino, non so, già cominciano a lamentarmi, sto provando che sono sempre che sto facendo l'amore con 15 brasiliani alla riga. Ci sentiamo domani, va? Ciao, alla prossima. Ciao ok. Avanti Gianni, doppio ru, ci sei ancora? Ciao Antonio, buonanotte, e ciao Fabrizio, buonanotte, ci mi sentite, ciao, buonanotte, quelli lì per me.